Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Bene, oggi faremo un viaggio alla ricerca dei prodotti perduti, ma continueremo anche altre settimane andando a cercare qua e là per l'Italia quelli che io chiamo i giacimenti gastronomici, quelli che magari sono stati dimenticati, quelli che molti di voi sicuramente non conoscono perché sono, diciamo, coltivati e poi prodotti e poi anche assaggiati negli stessi territori di produzione perché non arrivano al mercato. Allora noi cercheremo di dargli voce a questi prodotti perché secondo me sono importanti, perché rappresentano una parte della cultura materiale di quei territori dove appunto sono nati, sono cresciuti e dove in molti casi sono stati anche dimenticati. Vi ricordo anche che chi vuole segnalare altri prodotti, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene. Cominciamo questo, diciamo, giro per l'Italia, zonzo per l'Italia, da Firenze, in questo momento alle Cascine. Alle Cascine perché? Perché è in corso un'importante manifestazione rurale che si chiama appunto i coltivatori custodi. Ora ci faremo spiegare da Riccardo Borghini, che è un agronomo produttore, produttore di patata di cetica e di fagiolo di Gaviano, e proprio di questi parleremo poi, però prima ci facciamo spiegare cosa sta succedendo alle Cascine in questo momento. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Allora, cos'è questa manifestazione? La manifestazione va molto bene, è molto interessante sia per noi produttori che credo per i visitatori, perché è una bella vetrina in cui si può vedere dei prodotti che, come diceva lei, non si trovano comunemente in commercio, ma si possono vedere solo o direttamente in azienda o appunto in queste occasioni, ed è appunto un evento importante soprattutto anche per le giovani generazioni, ecco. Allora, passiamo alla patata di cetica di cui lei è produttore. Innanzitutto, questa patata è una patata rossa. Che peculiarità ha questa patata? Dunque, questa patata è un'antica varietà autoctona della nostra zona. Siamo nel Prato Magno Casentinese, in provincia di Arezzo. È una vecchia varietà che appunto era quasi estinta 10 anni fa. Poi abbiamo recuperato contributo scientifico dell'Università di Firenze, abbiamo riportato in produzione, certamente ancora in piccole quantità, ma ne vale sicuramente la pena perché è un prodotto eccezionale, ha delle caratteristiche in cucina che ne esaltano, diciamo, le caratteristiche, soprattutto nei primi piatti, ad esempio gli gnocchi, in quanto una polpa bianca molto soda, quindi ha meno acqua rispetto ad altre varietà, ha la caratteristica di assorbire quindi anche meno farina, e quindi il gusto dei primi piatti, in particolare gli gnocchi, è eccezionale, ecco, molto molto caratteristico. Poi ecco, ha un sapore molto salino tipico, ecco. Ecco, dov'è Cetica? Innanzitutto inquadriamo dove è Cetica. Cetica si trova in provincia di Arezzo, in Casentina, una valle dal quale nasce l'Arno, infatti. È una località a circa 700 metri di altitudine, quindi in piena montagna, sulla montagna del Prato Magno, che arriva fino a 1600 metri. Ecco, è stata recuperata negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, questa patata, ma ha svolto anche un ruolo sociale, perché mi dicono che a Cetica, come posso dire, ha ricoperto, compattato un po' la comunità che se ne stava disperdendo da altro. È vero questo? Che ha avuto anche... innanzitutto sulla patata è nato un consorzio che attualmente fanno parte 14 produttori, e oltre a questo chiaramente il paese intero comunque ha svolto per il consorzio un ruolo importante, ma anche il consorzio ha svolto un ruolo importante per il paese, perché comunque è servito a creare un'adesione legata a un prodotto che però è fortemente legato al territorio, quindi si è creato un binomio che non è solo puramente commerciale, ma è un binomio anche sociale, perché praticamente poi col paese si fanno delle manifestazioni, delle sagre che sono comunque tutte inerenti a questi prodotti e al suo territorio. Ecco. Senta, ha anche attirato turismo questa patata? Sicuramente, negli ultimi anni abbiamo visto che comunque l'attrazione, diciamo, del prodotto tipico della gastronomia locale ha attirato molti visitatori, non soltanto in occasione di una sagra, ma comunque un afflusso, diciamo, nei periodi soprattutto della bella stagione, molto più continuo, e quindi sicuramente ha svolto anche un ruolo turistico, diciamo così, la riscoperta di un antico sapore come quello delle nostre patate. Bene, ricordo un numero verde 800 24 0024. Sentiamo Guido dalla provincia di Cuneo, un radioascoltatore. Buongiorno Guido. Buongiorno Davide. Prego. Prego, prego, può parlare. Io volevo segnalare innanzitutto la rapa di Caprauna, che è un piccolissimo comune più a sud del Piemonte e già sul versante ligure, sopra Albenga, e dove ancora mi risulta 5 coltivano la tipologia vecchia di rapa, che è una rapa tutta bianca e dolcissima, che ha nulla a che vedere col sapore delle altre. Quindi 5 agricoltori, 5 coltivatori la coltivano questa, Guido. Bene. Sì, sì, ancora 5 famiglie hanno ripreso sui terrazzamenti, adesso anche il presidio Lofud, e lì Alta Valletana, e nella Valletana ci sono anche i fagioli bianchi di Bagnasco e i ceci di Lucetto, sta tutto riprendendo. Grazie a questo è finito un pochettino. Bene. Per il momento sono pensionati che si sono. Grazie Guido. Sta riprendendo. Grazie Guido, anche questo è importante. Ritorniamo a Riccardo Borghini. Ci dice due cose su questo fagiolo di Gaviano, anche questo sconosciuto. Sì, anche questo fagiolo fa parte del nostro territorio, perché Gaviano è una località vicinissima a Cetica. È un antico fagiolo, anch'esso coltivato da moltissimo tempo, che appunto ormai si tramandava di famiglia in famiglia, non esisteva una vera e propria commercializzazione. Anche su questo, insieme alle patate, è stato fatto un lavoro di recupero e attualmente, seppure in quantità ridotte come del resto delle patate, viene attualmente coltivato e commercializzato nella nostra zona. È un fagiolo bianco molto molto tenero, non ha praticamente buccia, infatti si può cuocere direttamente senza doverlo tenere a mollo ed ha un gusto molto fine e caratteristico. Bene, grazie Riccardo Borghini. Io prego Elisa Malatesta di rimanere con noi. Ora passiamo la linea alla regia, anche al radioascoltatore Alessandro. Torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo alla ricerca del prodotto perduto. Numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Beh, le devo dire che è incredibile, mi sono già arrivati non so quanti sms e devo dire che io credo di conoscere abbastanza l'Italia dei giacimenti gastronomici, però mi arrivano tutti i prodotti che veramente mi lasciano interdetto, perché non ne conosco quasi nessuno di quelli che mi stanno arrivando. Ma sentiamo Alessandro dalla provincia di Mantova. Radio ascoltatore, buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno Davide. Ascolti, io chiamavo per segnalare a lei e a tutti gli ascoltatori la fiera Piante e Animali Perdute che si tiene il prossimo weekend dal 29 al 30, ovviamente, quindi settembre, a Guastalla. E questa fiera qui è ormai storica, è enorme e proprio prende tutto il paese, tutta la città. Veramente, insomma, servono per visitarla tutta, servono almeno un paio d'ore, proprio perché è enorme. E in questa fiera qui, appunto l'ho detto, a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è dedicata proprio a sì, tutto quello che è piante, animali perduti, quindi tutte le produzioni autoctone, sia a livello di vegetali sia a livello di specie animali. Bene, grazie Alessandro, sì, l'ho visitata l'anno scorso, quindi anch'io invito chi è appassionato di piante e animali, così che non si trovano quasi più, di andarla a visitare, molto interessante. Ma ora andiamo in un posto, in una frazione addirittura, perché la verità è che tutti questi prodotti straordinari nascono in piccolissimi borghi e, come prima è successo, abbiamo sentito, di Cetica, c'è, come posso dire, una ripresa di questi borghi. Ora andiamo a Treschietto. Treschietto è una frazione di Bagnone. Io sono stato anni fa a andare a scoprire questa cipolla, perché è veramente in questo borgo ormai tutti coltivano questa cipolla. Abbiamo con noi appunto una produttrice di cipolla di Treschietto, Elisa Malatesta. Buongiorno Elisa. Buongiorno a voi. Allora Elisa, lei ci descrive cosa c'ha di particolare questa cipolla, me la descriva, cioè perché è così importante? Beh, è una cipolla che, insomma, si differenzia dalle altre per la sua dolcezza, perché è una cipolla molto dolce, e quindi la particolarità è che è da mangiare non esclusivamente, ma in particolar modo cruda. È una cipolla molto robusta, quindi è una cipolla che quando è matura raggiunge anche il mezzo chilo, la sua grandezza. E quindi anche cotta è buona se uno fa delle frittate, o seppure le usa, la fa con delle torte. Diciamo che per noi la cipolla è importante perché è proprio il nostro prodotto, perché Treschietto, quando uno parla di Treschietto già pensa alla cipolla, non pensa a nient'altro che alla cipolla. Sì, è vero, ormai è sinonimo di cipolla. Sì. Senta, ma quanti siete che producete questa cipolla? Diciamo che adesso siamo una decina di produttori, anche perché noi, solamente noi, addirittura siamo in tre fratelli e tutti e tre produciamo. Quindi viene utilizzata nel mercato, diciamo, locale più che altro, va dai fruttivendoli locali oppure sì. arriva anche molto fuori, perché la produzione è molto limitata. È limitata come produzione, perché d'altronde Treschietto è un paesino piccolo, quindi non è che possiamo arrivare a grossi quantitativi. Comunque siamo arrivati anche a portarle in paesi come Rovigo, insomma non è che ne portiamo grossi quantitativi, però siamo arrivati anche fino a là. Più che altro il consumo è qua locale, ecco, nella provincia di Massa Carrara e La Spezia. Bene, rimanga con noi, io devo leggere alcuni diciamo prodotti. Il fagiolo a pisello, prodotto nel comune di Sessa Cilento, e poi ancora uno mi scrive i trigoli, le castagne di lago, e questo sarei curioso di saperle, se c'è qualcuno che mi spiega cosa sono i trigoli, interviene, mi farebbe un grosso favore perché mi incuriosiscono. E ancora il melgot, questo mi arriva dalla provincia di Bergamo, questa segnalazione. Ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Spiegatemi cosa sono i trigoli, che sono castagne di lago, che dice una signora che le mangiava da bambino. Poi mi arrivano diverse segnalazioni che dicono che non trovano la guida delle trattorie, che oggi è uscita tra le guide del gastronauta, appunto col Sole 24 Ore. Non ci posso fare niente, cari radioascoltatori, non dipende da me, quindi insistete, mi sembra strano, comunque insistete. Bene, continuiamo su questo viaggio, ora andiamo in Valle d'Aosta, da Donato Ball, perché andiamo da Donato Ball, parleremo anche qui di un prodotto veramente unico, cioè che si trova difficilmente, si chiama Tetun, e ora lo facciamo spiegare a Donato Ball, appunto del salumificio Gignot, che è a Gignot, ad Aosta, provincia di Aosta. Buongiorno Donato. Buongiorno. Allora, cos'è questo Tetun, ce lo spiega? Praticamente la mammella della mucca. E quindi come voi la producete? Come viene messa sul mercato il Tetun? Prima cosa c'è una lunga lavorazione dietro al Tetun. Ce la racconta un po'? Sì. Allora, il Tetun, quando si macella la bestia si tira via il Tetun, no? Sì. La mammella della mucca si tira via. Si tira via e poi si sbatte, perché logicamente c'è del latte dentro. Si massaggia finché praticamente tutto il latte va via. Una volta che tutto il latte è andato via, si mette sotto i gusti, con del sale, pepe, rosmarino, alloro, ginepro, e si lascia macerare per 10 giorni. Dopo questi 10 giorni si tira fuori e si fa cuocere. Noi lo facciamo cuocere a una temperatura di 60 gradi per 12 ore. Viene messo dentro degli stampi, tipo i prosciutti cotti, e poi si lascia cuocere queste 12 ore, si lascia raffreddare, si tirano via dagli stampi e poi è pronto per mangiare. Si può mangiare col bagnetto, così crudo, con qualsiasi salsa che uno vuole. Ho capito. Viene affettato fine, e questo è famoso tutto in la Valle d'Aosta. Bene, senta, è una diciamo che è una, come posso dire, è una tradizione molto molto locale, molto vostra questa. Io, al mese di agosto si fa anche una festa. Ah. È proprio denominata la festa del Tetun. Perché diciamo che fuori della Valle d'Aosta è un po' rara poterla trovare. Non si trova. Almeno non penso che si trovi. Ho capito. Senta, e quante se ne produce? Se ne produce poca, perché voi siete tra gli unici a produrla, credo. Ma noi facciamo quei 5-6 quintali all'anno, li facciamo di tutto. Ho capito, quindi è importante, insomma. Sì, io l'ho trovata anche a Milano, quindi vuol dire che arriva anche a Milano. E senta Donato, ma cioè, quando voi siete una regione molto turistica e quindi i turisti chiedono il Tetun, sì, se lo portano via? Se lo portano via? Se lo vengono a portare via, quando vanno a casa vengono proprio a chiederlo per portarselo via. Ho capito. Bene, grazie, grazie a Donato Bal della Salumi Ufficio Gignot a Gignot in provincia di Aosta. Numero verde, lo ricordo, 800 24 00 24. Avevo visto un radioascoltatore che doveva intervenire per spiegare appunto cos'era questi trigoli. Ora cerchiamo di recuperarlo perché è interessante. Io ho una battuta a Elisa Malatesta. Senta Elisa, lei come la consiglia cucinarla questa cipolla? Al forno? Forno oppure con la frittata o come altro? No, il piatto tipico da noi è la barbotta, che viene fatta con praticamente la cipolla, poi ci si mette un po' di farina gialla, ci si mette il formaggio parmigiano e poi in forno. Ho capito, bene. Bene, grazie, grazie. Ora diciamo che parliamo di un argomento completamente diverso, devo dire. Un argomento che riguarda un interesse ultimo di moltissima gente, anche per quello che stanno succedendo le intolleranze o d'altro. E parleremo di farine, poi faremo anche una toccata e fuga sul riso. E voglio parlarne con Renzo Sobrino. Renzo Sobrino è un importante molitore, un mugnaio che è noto tra tantissimi panettieri, è noto appunto dove è importante la farina di grandissima qualità. E voglio chiedere a Renzo Sobrino se si riescono a recuperare vecchie farine importanti. Buongiorno Sobrino. Buongiorno a tutti. Sobrino, si riescono a recuperare vecchie farine, magari con fatica, magari andandole a cercare appunto tra i campi, andando a cercare tra i piccoli produttori? Beh, abbiamo la fortuna di Italia di avere dei contadini molto appassionati del proprio lavoro e qualche volta anche legati alle proprie tradizioni, e quindi esistono ancora, per fortuna, e quindi sono recuperabili vecchie varietà di cereali, mais, grano. Nel nostro caso specifico, la nostra ricerca dei vecchi cereali è iniziata nei primi anni 80 con la ricerca delle vecchie varietà di mais per la polenta. E poi invece ultimamente, in questi ultimi anni, la nostra ricerca si è spostata alla ricerca delle vecchie varietà di grani teneri. E qui parliamo di varietà di grani che si seminavano comunemente all'inizio del secolo scorso, fino alla metà del secolo scorso. E sono, parlando di grani, sono varietà di grani che noi ricerchiamo per le loro caratteristiche organolettiche e anche per il fatto che sono i pani prodotti con queste farine sono maggiormente tollerati da chi ha dei piccoli problemi di intolleranza al glutine, perché queste vecchie varietà di cereali, di grani teneri, sono molto povere di glutine, e quindi c'è questo aspetto naturistico, insomma. Quindi è importante dal punto di vista questa ricerca, dal punto di vista salutistico, sì, sicuramente. E rimanga con noi Sobrino, perché ora abbiamo Giuseppe da Roma. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Io sono originario di Bari, stavo sentendo quel tetun di Valtostano e vorrei dire che anche da noi c'è questo piatto, però è più semplice, è fatta semplicemente arrostita ed è un piatto privatissimo e molto molto raro da trovarsi. Quindi da voi in Puglia, questo stava dicendo? Perché lei sta... Esatto, sì, a Bari, si chiama la pizza, è un termine dialettale. Ho capito, bene, bene, grazie Giuseppe. Sentiamo Silvia da Mantova. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Prego. Buongiorno, salve. Niente, volevo spiegarle cos'erano i trigoli, visto che fantastico. Il messaggio che avevo mandato. Fantastico. Praticamente sul lago di mezzo di Mantova, che poi è il Mincio che si allarga in questi tre laghi piccolini, crescono queste piante che sono galleggianti, no? Sotto le quali crescono questi trigoli che altro non sono, hanno una forma stranissima, sono queste castagne di lago con tre punte, si trovano anche negli affreschi del Palazzo Ducale, ancora come testimonianza che erano conosciuti da sempre, insomma. E una volta, per le vie della città c'erano questi triguler, erano chiamati così, persone che andavano a raccoglierli, li bollivano, no? E con un coltello speciale tagliavano le tre punte, si aprivano, no? E dentro c'era questa castagna che si mangiava lessa. Io da piccola mi ricordo questo sapore un po' acidulo, però sinceramente bene. Come dire, è un ricordo bene. Molto vago. Grazie Silvia che ci ha così è intervenuta per spiegarci questo interrogativo. Io voglio tornare a Sobrino per il riso. Sobrino, lei è un grande cercatore anche di vecchie varietà di riso, se non erro. Beh, in questo caso sono un piccolo ricercatore, nel senso che noi abbiamo semplicemente deciso per produrre la farina di riso che poi mettiamo in commercio di utilizzare una vecchia varietà di riso che si chiama Balilla. Che ricorda un certo periodo sicuramente. Esatto, e quindi è un riso tondo, quindi molto adatto per produrre la farina che noi produciamo appunto macinando questo riso con la macina in pietra. E noi abbiamo scelto il Balilla proprio perché il nome stesso ce lo ricorda, come ricordava anche lei, è un riso sicuramente di vecchia data, insomma. Certo. Quindi non è stato ibridato ultimamente, visto che ci sono tutte queste paure legate a queste, soprattutto queste pratiche di intervento sul, certo, sul DNA, eccetera. Quindi queste sono anche in questo caso abbiamo scelto la vecchia varietà anche per essere più sicuri da questo punto di vista. Bene, grazie a Renzo Sobrino, prego Giacobbe e Paola, una radioascoltatrice da Roma, di rimanere con noi. Passo la linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo alla ricerca di prodotti molto particolari, rari, che sono stati recuperati e hanno una grande storia. Ora andiamo in una frazione, Vinca, in provincia di Massa Carrara, frazione di Fivizzano, e andiamo da un panettiere che ha appena sfornato il pane. Andiamo da Adriano Mariani. Buongiorno Mariani. Buongiorno. Senta Mariani, voi producete questo pane di Vinca. Sì. Cosa c'ha di particolare questo vostro pane che ha grande successo e piace moltissimo? Cosa c'è? Cosa c'ha? Non so nemmeno io cosa dirle. Sarà l'acqua di Vinca, sarà l'aria, cosa vuole che le dica? Ma poi anche la farina, perché diciamo che è un mix di farine. Eh sì. Quale farina usa? C'è anche la crusca dentro il vostro pane? No, noi usiamo la farina tipo 1. Ho capito. E doppio zero. Ecco, tipo 1 e doppio zero. Senta, ma anche il forno a legna voi usate? No, abbiamo il forno non a legna. Ecco, ma Vinca, che mi sembra, io sono stato una volta, c'ha 4 case. No, 4 case, veramente... Ce n'è di più delle case. Sì, ce ne sono di più? Sì, Beh, c'è ma quel cucuzzolo che per arrivarci, insomma, è un po' dura arrivare su, eh? Sì. Ma come è nata, cioè, questa tradizione del pane a Vinca? Perché mi sembra... È nata che tanti anni fa i cavatori andavano su lunedì e ritornavano il sabato. Hai capito? Sì, sì. E si portavano una pagnotta da 2,5 kg così circa, ognuno. E gli durava tutta la settimana. E dopo siamo subentrati noi, lo portiamo di qua e di là, Spezia, Sarzana, capito? Senta, ma il pane ora mi sembra che sia anche voi lo producete di 2,5 kg? Eh sì, 2,3 kg, 2,4 kg, poi facciamo un'altra forma di 2 kg, facciamo 2-3 forme, via. Ecco, ma l'altra cosa importante è che ho visto che questo pane dura, a differenza di molti pani che si mangiano sì, in città. Ne so che dura, perché io sono rientrato sabato dalle ferie e lo prendevo... da un'altra parte e la sera non era più mangiabile. quindi sicuramente lei è rimasto sorpreso. Ma quanti panifici ci sono? Sono 2 o 3 a Vinca? Ce n'è 3. Quindi, 3 panifici, sì. Quindi sicuramente tutto il pane va fuori, perché insomma il, diciamo, e uno che... lavora solo per Vinca e quell'altro, e uno lavora come noi, va a Massa, Carrara, okay. Non so dove va. Ho capito, bene, allora Adriano Mariani, Vinca, il sì. Panificio Nello Quartieri, Adriano Mariani. Grazie. Grazie a voi. A presto. Sentiamo. Arrivederci. Numero verde 800 24 00 24, che Paola da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere un'informazione. Io ho mangiato sia in Emilia, ma quest'anno anche in Alto Adige, la guancia, e non l'ho trovata qui a Roma, e vorrei avere alcune informazioni e sapere come si può cucinare. Ma strano che non trovi a Roma con tanti macellai la guancia, però guardi, come si dice, cade a fagiolo, perché abbiamo sull'altra linea Giovanni Giacobbe, che è un bravissimo macellaio di Sassello. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei, Davide Paolini, a tutti gli ascoltatori. Senta, ma è possibile che non si trovi la guancia a Roma? Lei che dice, Giovanni? Ma io penso che sia un po' strana la cosa, perché la guancia, se si intende sia di bovino che di maiale, è un ottimo prodotto. Probabilmente dovrà cercarla meglio, ma dove deve trovarla. Eh beh, certo, penso proprio anch'io. Bene, Giovanni Giacobbe produce dei prodotti molto particolari, per questo l'ho chiamato, perché oltre ad essere un bravo macellaio, appunto, fa anche una serie di, chiamiamoli così, di salumi, tra cui la coppa di testa. Ecco, vuol spiegare cos'è la coppa di testa, Giovanni? Sì. La coppa di testa, che da noi in Liguria, io sono un macellaio di un piccolo paese dell'entroterra ligure che è Sassello, e la coppa di testa da noi in Liguria viene anche chiamata testa in cassetta. Praticamente sarebbe la testa del maiale, senza il guanciale, che è la parte più grassa, disossata, tagliata a pezzettini, salata con sale, pepe, noce moscata. Noi in Liguria è nostra usanza mettere i pinoli, messa in appositi stampi, bollita 4-5 ore. Questa per noi è la classica testa in cassetta. Ecco, lei però ha portato delle variazioni a questa, sì, a questa produzione. Sì, forse per renderla più attuale, forse per renderla, perché probabilmente è un gusto. Sì, perché diciamo così che amo le tradizioni, ma in questo prodotto mi piace anche cercare qualcosa di innovativo. Alcuni anni fa, parlando con un produttore di mele della Val d'Aosta, ho provato a produrla con un abbinamento di mela secca e cannella. Mentre invece pochi mesi fa, sempre mi danno l'idea a altre persone, in questo secondo caso l'idea me l'ha data un negozio di Vica e Quince, che è la tradizione, e parlando con loro ho fatto un abbinamento con scorza di limone e scorza di arancia, che lo trovo molto intrigante. Quindi diciamo che la tradizione, come si dice, è un'innovazione riuscita, è così? Sì, secondo me sì, devo dire che non mi dispiace per niente. Ecco, nella sua zona invece la tradizione che è rimasta tale quale, diciamo, dei salumi, ci sono dei, sì, salumi che sono rimasti appunto tali e quali? Cioè, diciamo sì, salumi che rimangono tale quali, io intendo il salame crudo, il prosciutto cotto, in particolare queste cose qua restano, non voglio e non vorrei mai variare da come mi hanno insegnato a produrli. Il salume cotto, ma va ancora il salume cotto? Sì, il salame cotto va ancora, ma anche il prosciutto cotto va molto, è molto buono il prosciutto cotto, secondo me, è delicato, attuale. Il salame cotto, estendo noi una zona di confine fra Liguria e Piemonte, è molto amato anche dalla parte piemontese. Ho capito. Mentre invece la testa in cassetta è molto amata nel versante ligure. Ecco, rimanga ancora con noi, perché ora leggo, ci sono tantissimi sms, ce n'è uno che mi parla della lenticchia di capra cotta coltivata in Molise a 1500 metri di altezza, e poi ancora c'è un noto macellaio di Arzignano, il negozio dei fratelli Damini, che dice che sta in questo momento facendo la polenta proprio con la farina del molino Sobrino, dice che è tutta un'altra cosa questa polenta rispetto alle altre, quindi sicuramente colleghiamo appunto la ricerca del molino Sobrino con questo dato di fatto. Ci sono altri che ci cercano l'indirizzo, noi purtroppo non possiamo dare gli indirizzi di tutti i produttori che abbiamo sentito, ma sono facilmente recuperabili, avete sentito il luogo di produzione, quindi sicuramente si possono trovare benissimo, non possiamo metterci qui a dare. Comunque le voglio ricordare, il panificio è a Vinca, Nello quartiere Adriano Mariani, Riccardo Borghini è l'agronomo ed è della patata di Cetica, quindi risiede a Cetica. Elisa Malatesta è a Treschietto, la cipolla. Il Tetun è Donato Baichi a Gino, poi avremo altri. Renato Sobrino è alla Morra in provincia di Cuneo. Poi qui ci sono anche altri indirizzi che io sicuramente non abbiamo citato questi produttori. Giacobbe, volevo chiederle questo: torniamo a questo prodotto, appunto, la coppa di testa, ma si vede poco però in giro la coppa di testa. Si vede poco, ma io non penso che non si debba vedere, perché è molto, magari cambiano i nomi, ma in ogni regione, soppressata, Toscana, coppa di testa in centro, io non, un pochettino si vede. Insomma, non è molto grassa, diciamo che non spaventa il grasso. No, non spaventa, no, secondo me non spaventa il grasso. Comunque, va bene. Io la trovo affascinante. Bene. Sentiamo Enrico dalla provincia di Venezia, un radioascoltatore. Buongiorno Enrico. Buongiorno, piacere sentirla. Volevo parlare di qualcosa di dolce e molto semplice. Io sono di Genova di origine e lì quando vendono la panna montata nelle gelaterie o pasticcerie, la montano, io ho lavorato anche in pasticceria, viene montata aggiungendo zucchero vanigliato. Il gusto cambia completamente, cioè è una cosa semplicissima, però toglie un po' quel gustino di, diciamo, di caseario della panna, che la panna giustamente ha. Ho provato a proporla, e a Genova si usa in pasticceria per fare per esempio i cavolini, che di Genova sa cosa sono, se vignè ricolmi di panna. Ho provato a proporla in altre zone con l'anghietta, dove sono, dove vivo adesso, ho trovato una chiusura mentale pazzesca. Direi che sarebbe meglio che i produttori provassero, come ha fatto il mio collega di prima, trovare anche delle innovazioni, non andare avanti con le stesse cose. Senta, ma lei si riferisce a un prodotto quindi da recuperare? Non ho ben capito, mi scusi. No, è un prodotto che a Genova si usa normalmente, cioè la panna montata viene montata con lo zucchero vanigliato. In altre parti d'Italia non lo trovo, invece si dà la panna montata, per esempio sul gelato o altre cose, si monta la panna così, senza aggiungere niente, però ha un retrogusto molte volte un po' da formaggio, da ricotta, beh, giustamente panna, però aggiungendo un po' di zucchero vanigliato cambia completamente gusto. A Genova si fa normalmente, in altre parti d'Italia non l'ho trovata. Bene, vediamo se magari qualche radioascoltatore lo ricorda. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 2386 6, se in qualche altra parte d'Italia succede questo. Ringrazio Giovanni Giacobbe, macellaio a Sassello. Sassello è nota per i baci di Sassello, anche ricordiamo anche questo. Ricordo anche che da oggi per 12 settimane, allegato al Sole 24 Ore, ogni sabato usciranno 12 guide diciamo curate dal gastronauta, quindi da oggi in poi per 12 settimane seguirà le trattorie, seguiranno le pizzerie, poi le gelaterie, le pasticcerie e quindi altre 8. Passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a cercare dei prodotti perduti, prodotti da recuperare, prodotti che sono stati recuperati anche se si trovano difficilmente, ovviamente, perché quanto così la produzione è limitata o si va sul posto ed è difficile trovarli, ma magari il prodotto di cui parleremo ora sicuramente è maggiormente recuperabile, perché ci sono delle aziende agricole importanti che lo producono, anche se magari è poco conosciuto. Beh, ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, andiamo all'azienda agricola Paglione a Lucera in provincia di Foggia, da Francesca Facilongo. Buongiorno Francesca. Buongiorno a lei Davide. Allora, si parlano sempre, quando parliamo di pomodoro, chissà perché immediatamente arriva all'attenzione il pomodoro San Marzano, ma esistono anche tanti altri pomodori di grandissima qualità ed alcuni sicuramente che sono prodotti non ovunque, quindi diciamo che in un certo senso non sono così diffusi. Parliamo del pomodoro Prunillo. Francesca, ci spiega cos'è questo pomodoro particolare che voi con la vostra azienda, diciamo, producete e quindi mettete, diciamo, in vetro, lo distribuite anche? Esatto, la mia azienda è a filiera corta, quindi noi ci occupiamo di tutta la fase della produzione, partendo dalla produzione agricola. Il Prunillo è un pomodoro molto particolare, molto delicato. In provincia di Foggia c'è un grande problema di mancanza d'acqua, quindi questa varietà di pomodoro si è un po' adattata alla situazione climatica ed è infatti un pomodoro che coltiviamo in arido cultura. Cioè, spieghi all'incolto cosa significa arido cultura. Praticamente durante la fase di vita del pomodoro la pianta non viene irrigata artificialmente, non c'è un impianto di irrigazione e questo fa sì che il pomodoro abbia un gusto molto concentrato, è molto piccolo, ha una buccia sottilissima e anzi possiamo anche dire che una pioggia in un momento sbagliato, magari verso la parte finale, verso quando il pomodoro è praticamente maturo, potrebbe anche rovinare il prodotto perché il pomodoro si gonfia e si spacca. Quindi insomma è molto delicato. Adattato, molto delicato e per questo motivo va raccolto a mano, va curato in modo particolare, quindi la produzione è abbastanza complessa. Bene, rimanga con noi perché poi vedremo altre cose su questo pomodoro. Stefano da Genova, un radioascoltatore, buongiorno Stefano. Buongiorno. Prego. Volevo premettere che io ho dei problemi a parlare, quindi magari non riesco a farmi capire, perché purtroppo sono malato. Volevo dirle, lei conosce un vitigno che si va scomparendo a Comacchio? No. Il centro Maiolo? No, non lo conosco. La Rossiola? No, non lo conosco. Ecco, lì sul posto, ristoranti anche di una certa validità lo considerano un vino, però purtroppo non c'è nessuno che valorizzi queste cose locali. Si chiama Rossiola, viene prodotto da un privato. Guardi Stefano. Qualche vite che ancora produce la Rossiola. Le faccio una promessa, in una delle prossime trasmissioni parleremo dei vitigni che stanno scomparendo o che sono molto rari. Lei, abbiamo capito benissimo cosa ci ha voluto dire, quindi la ringrazio del suo intervento, grazie e buona giornata. Bene, sentiamo ora Dionigi da Milano. Buongiorno Dionigi. Buongiorno, un'osservazione velocissima. È da anni che si fa propaganda al lardo di Arna, al lardo di Colonnata, non si trova più il lardo naturale con il solo sale tranquillo, con quel bel sapore di lardo puro. Bene, facciamo un appello a tutti i macellai, peccato che non abbiamo qui ancora Giacobbe, se no l'avremmo fatto direttamente lui. Grazie Dionigi. Ora andiamo a scoprire un formaggio molto, ma molto raro, io credo che pochi lo conoscono, ed è la Toma d'Elva. E ne parliamo col sindaco, che è un ex Casara, quindi meglio di lei probabilmente chi ci potrà raccontare di questo formaggio. Buongiorno a Laura Jacopo. Lacopo. Buongiorno a lei. Sì, io vi posso parlare proprio con ragion veduta di questo formaggio, perché l'ho prodotto per 10 anni. È un formaggio, dunque Elva è un piccolissimo comune in provincia di Cuneo, molto piccolo, molto in alto, abitato fino a 1850 metri tutto l'anno, quindi proprio un piccolissimo paesino delle Alpi, dove viene prodotto un formaggio che si chiama la Toma di Elva, che è di latte intero, una pasta molto morbida, molto grasso, è prodotto in quantità limitate, perché qua la produzione di latte è poca, qui è solo latte della zona, ed è un formaggio imitatissimo, che non tutto quello che c'è in giro è la Toma di Elva. È molto buono, viene usato per la fonduta, ha una resa eccezionale con questo formaggio, proprio si sente, poi è un formaggio fatto con il latte d'alpeggio, è prodotto anche d'inverno, ma quando è prodotto con latte d'alpeggio è veramente notevole. Senta Laura, lei ha detto imitatissimo, certo, perché diciamo per trovare un produttore abbiamo veramente disperato di trovare un produttore che ci parlasse di questo formaggio, e quindi abbiamo scoperto che lei era un'ex produttrice, quindi sì, vuol dire quanti produttori ci sono? Ma i produttori adesso saranno rimasti, questo è il caseificio che lo fa, questo nostrale, poi ci sono ancora 2 margari che producono il formaggio d'estate, fanno il nostrale, poca roba. Bene, vediamo di farlo, di promuoverlo con questa trasmissione. Grazie a Laura Lacopo, grazie. Sentiamo Walter dalla provincia di Como, radioascoltatore, buongiorno Walter. Buongiorno Paolini. Mi dica. Stavo leggendo un articolo di Walter Riosi, mi sono interrotto subito quando ho sentito la vostra trasmissione. Velocemente, io sono, anche per ragioni di lavoro, sono un cultore di cultivar particolari, soprattutto antiche. Ah. E volevo segnalarvi una prugna, la Scagnarda, che viene dall'Oltrepò Pavese. È una prugna che secondo me è la migliore in assoluto per fare marmellate di prugna. Ci vuole una cultivar recuperata da un orticoltore della provincia di Lecco, è molto antica. Bene, grazie. Conosciuta. Grazie Walter di questa segnalazione. Oreste da Viterbo, un altro radioascoltatore. Buongiorno Oreste. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Volevo parlarvi di Grotte di Castro, che è un paese sulle pendici che degradano verso il lago di Bolsena. È una cosa interessante, che è una tradizione plurisecolare sulle patate. È famosa perché le patate coltivate lì erano super prelibate, famose perché in realtà venivano conservate nelle cantine. La prego di stringere perché ho ancora 30 secondi. Successivamente, allora, vengono prodotte due patate, una blu e una viola. La viola è la vitelotte francese, che però in Italia non produce nessuno. E la blu è una patata che viene prodotta soltanto a Grotte di Castro. È particolarissima. Beh, è consistente, ha un sapore che è incredibile e un colore che è veramente spettacolare. Grazie Oreste, volevo parlare a lungo con Francesca Facilongo dell'utilizzo di questo pomodoro, ma purtroppo dalla regia mi fanno segnare di chiudere. Io vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 con la pillola. Un caro saluto dal vostro gastronauta. Il gastronauta diventa una guida. In edicola la prima uscita, Trattorie.